Ciao Sara, sono Livio, sono un consigliere municipale del PD, quindi siamo avversari politici e sono studente di scienze politiche all'università. Ho sempre avuto un debole per te, seppur da una diversità di posizioni politiche, quindi perché no, mi candido ufficialmente a questo nuovo concorso di quei mattacchioni della Zanzara.